Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. È Giulio Caperdoni a prendere in mano il testimone, poi lo cederà a Marco Garavelli che proseguirà fino alle 21, poi ci sarà Claudia e a chiudere la serata di Rock FM Maurizio Faolisi. Questo è il palinsesto di tutte le sere dal lunedì al venerdì. Si comincia alle 19 con Eclettica, un'ora assieme a Giulio Caperdoni, separata in due parti da 30 minuti ciascuno, funzionale. Tutto questo anche al podcasting, di cui trovate i dettagli su myspace.com/eclettica oppure su www.radiorockfm.com. Mi piace il sesso, ma mi piace anche la mia pianta di aloe e l'International House of Pancakes, dove si fanno le colazioni migliori del mondo. Le mie esperienze a letto mi fanno pensare ad un film di cui parlano tutti. Si va al cinema carichi di aspettative, ma poi all'uscita, strizzando gli occhi abbagliati dalla luce improvvisa, ci si scopre stanchi e confusi, increduli che quel film abbia sollevato tanto scalpore. Le mie storie erotiche si possono dividere in due categorie molto semplici: sesso con un coniglio e sesso e ricatto. Di esempi della prima categoria ne ho avuti a bizzeffe. Tutti uomini assurdamente impazienti che si trasformavano in martelli pneumatici, talmente ripetitivi che dopo un po' cominciava a pruderti il naso dalla frustrazione. Gli altri, invece, sono i fan dell'intramontabile sesso ricattatorio. Se non mi dici di sì subito, cadrò in depressione per tutta la vita, o quantomeno per tutta la serata. Peter era il re di questo tipo di strategia e io ci sono cascata chissà quante volte. Questo era ancora Ossi di Luna di Jonathan Carroll. I would swallow bumblebees for you. I've been swallowing bumblebees for you. I don't think you even noticed. I don't think you even know. Thank you. Marty, you're going to have to do something about those clothes. You walk around town dressed like that, you're liable to get shot. Or hanged. What idiot dressed you in that outfit? You did. Due interessanti nomi nuovi femminili sono quelli che hanno aperto quest'oggi Eclettica, entrambe dagli Stati Uniti, anche se la prima, a tutti gli effetti, sta avendo una carriera in Francia, tanto che io l'ho trovata all'interno di una compilation che è dedicata alle nuove leve del pop francese. Sto parlando di Kelly DeMartino, che ci siamo ascoltati con Bumblebees, originariamente dalla California. Invece dall'altra costa, da New York City, arriva Juliana Berwick con questa sua proposta musicale molto particolare che si è appena chiusa, intitolata Dancing with Friends. Si rimane ancora negli Stati Uniti con un gruppo R&B direi abbastanza non convenzionale. Loro sono di Brooklyn, si chiamano Sidetrack. La loro non convenzionalità, per esempio, è rappresentata dal fatto che vanno in giro a cantare come coro, per esempio, per i Grizzly Bear, oppure si sono fatti produrre, oltre che scrivere, una traccia da Dave Longstreth dei Dirty Projectors per la colonna sonora di un film indipendente, Vernon Avenue, ed è proprio questo il brano che ci ascoltiamo. Si intitola Too Much Pressure. Now don't you hurt Mentre studiavo Danny sotto quella nuova luce, decisi che non me lo vedevo rientrare in nessuno dei due gruppi, ma anche se gli volevo un gran bene, non potevo metterci la mano sul fuoco. «Cullen, ho detto qualcosa che non va?» «No, niente, Danny. Stavo solo pensando al sesso». Sorrise con gli occhi e mi fece l'occhiolino più delizioso del mondo. «Cullen, se io e te finissimo a letto, sarei imbranato come una talpa, e lo sai perché?» Continuerei a guardarti e sarei assolutamente incapace di concentrarmi su niente altro. Lo disse con un tale umorismo e calore che mi fece venire voglia di alzarmi e abbracciarlo. Non ci pensai su tanto e lo feci. Lui mi strinse e dopo un istante mi ritrovai con il viso appoggiato sulla sua spalla gigantesca a piangere tutte le mie lacrime. «Scusa, non volevo, ma è più forte di me». Lui mi strinse ancora più forte, accarezzandomi la nuca. Era una sensazione meravigliosa. Aveva quell'odore che hanno gli uomini, un misto di pelle calda, acqua di colonia, sudore e terra d'estate, che ti fa sentire a casa, al sicuro, almeno per qualche istante, dalle grinfie della vita. Non fraintendetemi, buon odore o no, abbracciare un uomo nella maggior parte dei casi è come stringere uno scimpanzé o una lapide. O si lasciano abbracciare passivamente oppure calpestano ogni dolcezza trasformando il tutto nell'occasione per un'orgia. Danny James no. Avrei voluto continuare a sentire per tutta la vita quelle mani che mi scivolavano lungo la schiena con l'innocenza di un'acqua di torrente. Le mani sono una cosa meravigliosa. Possono far sparire una monetina ma anche ammorbidire un'anima dolente e accartocciata. «Sei così triste di vedermi, Cal. È per questo che piangi». Sorrisi e tirai su con il naso senza sollevare la testa dal suo torace. Era come se le sue parole, le sue carezze, la sua presenza avessero aperto uno spioncino da cui riversavano nel mio corpo latte e miele, e le mie cellule assaporavano incredule quell'ambrosia, quel bianco nettare traboccante di vita e vitamine. Glielo dissi e lui ridacchiò, nessuno mi aveva ancora mai dato del bicchiere di latte. Questo era ancora Ossi di Luna di Jonathan Carroll. We'll be right back. Now we know who Claire is. Marty, it's impossible. The idea that I could fall in love at first sight is romantic nonsense. There's no scientific rationale for that. Come on, Doc, it's not science. You meet the right girl, it just hits you. It's like lightning. Marty, please don't say that. Siamo al 12 dicembre, quindi il Natale è sempre più vicino, quindi anche Ecletica cerca di dare il suo contributo come canzoni natalizie. Prima però vi voglio ricordare che vi siete appena ascoltati The Keith John Adams con Nothing e prima ancora Ungdomsskolen dalla Norvegia con Ordinary Son. Contributo natalizio che consiste in Christmas Song dei Fireflies. Ho trovato questa canzone all'interno del loro nuovo album. Sono 11 tracce di indie pop sognante intitolato Good Night Stars, Good Night Moon. Ma visto il periodo dell'anno, questa mi sembrava la traccia più indicata. Ve lo ripeto, questa è Christmas Song. Winter brings, forecast says there's a glow.